cos'è questa violenza di cui parla tanta gente? Forse è la sofferenza di chi subisce e poi mente, chi non riesce a far volare via dalla bocca tanti segreti chiusi in una busta destinata a soffrire e poi svanire. Oh, non può essere possibile. La violenza è una malvagità, le loro mani sopra il volto, come a mostrarsi fragili ed i diritti che le han tolto sono pianti gelidi. Siamo pronti a combattere, siamo pronti a proteggerci contro la violenza e l'indifferenza che riguarda la volgarità. Sentimi e vedrai che poi pian piano amore tu avrai, e basta anche un sorriso a far scomparire i segni in viso. Voglia dimostrare a tutti che le donne sono preziose, il silenzio è un buco al cuore che ti scordi di coprire. Se volete continuare su una strada dove il male si ci accompagnerà, e poi al freddo, al gelo, lì ci lascerà, dove nessuno ci può prendere, dove il mare è come un pianto e il suono poi scompare, dalle urla si fa sovrastare. La violenza è come strappare un colorato fiore dal prato, lo tieni per te senza sapere il danno provocato. E le donne come il mondo, fuori grandi, piccoli in fondo, chiudono la bocca con una ferita nel profondo. Sentimi e vedrai che poi pian piano amore tu avrai, e basta anche un sorriso a far scomparire i segni in viso. Voglia dimostrare a tutti che le donne sono preziose, il silenzio è un buco al cuore che ti scordi di coprire. Calci, pugni, sangue, schiaffi li chiudiamo nel cassetto. Senza loro ora la tua vita non ha più un difetto. Corri fuori a dimostrare che nessuno può fermare una donna con la voglia di ricominciare. Non voglio che questa cicatrice si riapra, sogno che il sole asciughi tutti questi pianti. Dimmi se un ostacolo può far tornare quello che avevi fatto e poi continuare. Oh no no no no no, tu sei forte e puoi raccontare quello che è successo per non far cadere tante altre ragazze giù dal letto. Vola via da quella gabbia, non puoi tornare.